ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato anche questo mercoledì insieme, 7 febbraio 2024. Questa, come tutti ben sapete, è la settimana della città dei fiori, della musica italiana, della canzone d'autore e quindi del Festival di Sanremo. Abbiamo di conseguenza chiesto ai nostri giovani e giovanissimi cosa ne pensano, se conoscono il festival. E insomma, avremo delle incursioni radio, diciamo, simpatiche durante il corso della trasmissione. Ma non solo, perché questa settimana, esattamente il 12 di febbraio, c'è una ricorrenza che a noi sta a cuore, anche se onestamente non avremmo voluto viverla. Sono 10 anni che è scomparso Freak Anthony. Freak Anthony non c'è bisogno di presentarlo. Chi non lo conosce si vada a documentare, perché non ho nessuna intenzione di raccontarvi quello che Freak Anthony ha fatto per il nostro paese e per la nostra musica. Se non dirvi che se non ci fosse stato lui, tanto di quello che c'è adesso musicalmente in Italia probabilmente non esisterebbe neanche, o comunque l'avremmo dovuto scopiazzare da altri paesi e da altre modalità musicali. Quindi Freak Anthony è stato un pezzo di storia e ha non solo creato percorsi anche politici e veramente importanti a livello sociale, ma ha sfondato tutto quello che era il mercato della musica italiana negli anni in cui lui ha iniziato e anche successivamente, perché quando era il cantante degli Schiantos hanno fatto dei percorsi e dei progetti pazzeschi, e dopo anche singolarmente, quando è rimasto cantante solista, si è creato una band fantastica di musicisti veramente molto molto preparati, che insieme a lui hanno portato avanti altrettanti progetti veramente molto interessanti. Quindi adesso io intanto vi agevolo subito un brano del nostro Freak Anthony, e mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente, mi piacciono le sbarbine, mi sento deficiente, yeah, yeah, yeah. Lo so che non conviene, mi piacciono le sbarbine, ma poi chi si trattiene? Mi piacciono le sbarbine, quelle hot 1,80 m, yeah, yeah, yeah. Quelle basse 1,50 m, mi piacciono le sbarbine. Non esiste divisione, no, no, no. Quel che conta è il calore. Non conviene, no, no, no, mi piace. insieme. In caso le sbarbine, le barbine sono bionde, le barbine sono more, le barbine sono tante, le barbine in amore. Yes. Mi piacciono le sbarbine, gli Schiantos. Grande Freak Anthony, veramente, sempre con noi, sempre uno di noi. Bene, allora, adesso io questa settimana vorrei intanto agevolare subito il tutorial della nostra mascotte. Questa settimana ha dato veramente il meglio di sé, vi devo dire e confessare la verità, questo tutorial è stato montato perché era impossibile fare diversamente. Ha detto talmente tante cose in successione l'una all'altra, alla velocità della luce, che non sapevamo come fare a mandarlo in questa trasmissione se non dovendolo montare, perché veramente non so neanche se è un tutorial. Comunque, agevoliamolo, i tutorial della nostra mascotte. Allora, oggi parliamo di Sanremo. Cioè, non so se può sembrare un tutorial. Scusate la R perché non so se avevate capito, ma io la R moscia. Se non sapete che cos'è, non lo so neanche io. E, pagnai a me, oggi volevo parlarvi, so che ho già fatto il tutorial del canto, ma visto che questa settimana c'è Sanremo, stavo pensando, perché non faccio un altro tutorial del canto? Perché, cioè, non canto io, non canto, vi spiego come si canta. Questo cantare, io vi spiego perché, se avete le papille gustative, no, non c'entra niente, scusate, se avete la vocale, no, neanche, vabbè, mi sto impapillando, che rugola, quella cosa, la gola, se avete la gola, se avete il pipinillo nella gola, quello che fa, quando fate, e vi vibra il collo, è quello. Questa ugola, se si chiama ugola, non lo so. Ok, bando alle mance, bando alle ciance e andiamo. Come si canta? Mascotte, ma che stai a di? Ma che stai a di? Se volete cantare, cantare, bello cantare. Oh, cantare come la Margot. Chi è la Margot? Non lo so. L'escargot, cantiamo come l'escargot. Vabbè, ciao, direi fini. Non ho fatto un tutorial, vabbè. Allora, gli ultimi 10 secondi vi dico, se volete cantare, dovete... Comunque, ciao! Alla prossima volta, guys. Ciao! Ciao, ti piace Sanremo? Non lo so chi è. Cioè, come non sai chi è? No. No, ma il Festival di Sanremo? Non lo conosco. Ah, non lo conosci, va bene. Ok, grazie. Ciao, conosci Sanremo? Sì. Ok, e ti piace? Allora, diciamo che preferisco canzoni straniere invece che quelle italiane. Ok, tu suoni uno strumento musicale? Sì, suono la batteria. Ah, e c'è un gruppo, qualcuno che suoni tanto quando studi, insomma, c'è qualcosa che ti piace di più degli altri? È il gruppo rock dei Nirvana. Ah, i Nirvana! Bravo, grazie! Passami la mamma, lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire, resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male, dormo fuori e non farmela pesare. C'è un posto dove favore, stira la maglietta. C'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini. Sono un ribelle mamma. Bene, io sono cresciuta con questo brano, eh. Adesso non vorrei dire, ma grazie Freak, perché hai veramente cambiato anche la modalità di noi giovani dell'epoca, ecco, diciamo ancora sempre giovani, di affrontare la vita oltre che la musica. Comunque, torniamo al Festival di Sanremo e torniamo a un'annata che è del 2012, quindi parliamo di un po' di anni fa, quando per l'appunto Freak Anthony pensò e provò a partecipare al Festival di Sanremo, quando fece i provini della canzone, però quasi si chiama, gli fu detto che no. Il direttore artistico dell'epoca disse a Freak Anthony no, perché sei un personaggio di nicchia, e molto probabilmente perché era un personaggio scomodo, un personaggio eclettico, un personaggio non utile, diciamo, per il Festival di Sanremo. Quindi gli viene consigliato di trovare degli artisti, degli o un artista, un cantante a cui affiancarsi, o un gruppo a cui affiancarsi, che fosse più affermato di lui, meno di nicchia, più interessante per Rai 1 in prima serata. E Freak Anthony ha riflettuto un po' su questa proposta o consiglio, che dir si voglia, e alla fine diciamo che comunque non è andata al Festival di Sanremo, ecco, questo ci tengo a specificarlo. Il brano è uscito cantato in accoppiata con Luca Carboni, che anche lui non aveva nessunissima intenzione di andare al Festival di Sanremo, però una volta sentita questa storia ha deciso di cantarla insieme a Freak Anthony. Quindi noi adesso ve lo facciamo ascoltare, però sono le piccole assurdità della nostra Italia, no? Di come a Sanremo ci poteva essere qualcosa di veramente interessante, ma era troppo di nicchia, questo è stato detto. E beh, bene, bene, ascoltiamoci però quasi, quindi Freak Anthony, Alessandra Mostacci al pianoforte e Luca Carboni, però quasi. Ho visto un arcobaleno, era bellissimo, più bello di te non è possibile, però quasi. Ho mangiato un gelato, meraviglia golosa, più dolce di te non è possibile, però quasi. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana. denti. Regalami tutti i tuoi sospiri di piacere quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Regalami tutti i tuoi lamenti di piacere quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Visto un bolide fiammante, una moto velocissima, più formosa di te non è possibile, però quasi. Ho sognato di fare l'amore con Ivana Facalot, più calda di te non è possibile, però quasi. Fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Regalami tutti i tuoi sospiri di piacere quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Regalami tutte le tue fusa di piacere quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Ciao, conosci Sanremo? Sì. Ti piace? Sì. Sì, non mi sembravi molto convinto. Sì, mi piace molto. Ok, quindi la musica italiana ti piace, anche quella che propongono a Sanremo, che delle volte è un po' romantica, d'amore, alcune canzoni un po' lente, ti piacciono? Possiamo dire di sì. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Ti piace Sanremo? Io non l'ho mai ascoltato. Ah, ok, quindi non sai bene cosa succede al Festival no, di Sanremo? No. Ok, va bene, ciao! Ciao! Comunque, la storia di Freak Anthony e del Festival di Sanremo non finisce qua, perché cosa succede? Che sempre l'allora direttore artistico, che non voglio citare perché non voglio citarlo, gli ha consigliato appunto di trovare il nome grosso che avrebbe potuto affiancarlo durante il festival, e Freak Anthony, insieme alla sua band e al suo entourage di lavoro, insomma, hanno tentato e provato a proporre diversi nomi, anche insomma esponenti importanti e magari interessanti della musica italiana, perché insomma in Italia abbiamo comunque delle proposte musicali anche molto belle, devo dire. Quindi ha fatto diversi nomi e gli è sempre stato detto no, non va bene, no, non va bene, no, non va bene. Quindi a un certo punto lo stesso Freak decide di mandare un messaggio al direttore artistico dicendogli: senti, facciamo una roba, io a Sanremo ci vengo e porto Dio, viene con me a cantare. Dio, va bene Dio? Se porto Dio va bene? Perché potrebbe essere una soluzione a questo punto, visto che nessuno va bene, io porto Dio. Ho provato con Sanremo, vengo anch'io. Dio, mando lui, io vengo anch'io. Va bene se porto Dio, va bene se porto Dio. Vorrei dire, ma io sarei qua per chiedervi una cosa. Ah. Ma sentiamo. Allora, conoscete Sanremo? Ovvio. Sì, sì, sì, certo. Bene, uno per volta, grazie. Cosa ne pensi di Sanremo? Un programma sicuramente molto visto da tutta Italia, che, diciamo, cattura tutto il mondo televisivo e attira l'attenzione di tutti gli italiani in quel periodo. Ma tu, da musicista, sei interessato a Sanremo o pensi che anche no? Come, insomma... No, beh, comunque l'orchestra, a parte poi i cantanti e chi verrà a partecipare, l'orchestra è composta da tutti i grandi musicisti che io seguo in realtà e apprezzo. Tu cosa ne pensi di Sanremo? Devo dire, Sanremo sicuramente non è un contest musicale molto, molto serio, però devo dire che c'è divertimento nel guardarlo. In realtà alcune volte arrivano anche persone che sono interessanti da sentire, per esempio 2 anni fa, se non sbaglio, venne Lazza è stato abbastanza bravo. Ok, grazie. Ti piace Sanremo? Sì, lo guardo ogni volta che c'è. So cosa succede, è bellissimo. Cosa ti piace di Sanremo? I cantanti, la musica, le voci. Ah, ok, quindi tu ogni anno hai tipo un vincitore che speri che sia lui a vincere? Sì. Ah, va bene, bene, ok. E quest'anno lo sai che c'è anche Loredana Bertè a Sanremo? Sì. Ah, ok, va bene, grazie. Bene, siamo addirittura d'arrivo, quindi oggi è dedicato al Festival di Sanremo e a tutte le sue contraddizioni, dedicato ai nostri fanciulli che ci hanno risposto e sono stati con noi, dedicato ad Alessandra Mostacci che con le sue note meravigliose al pianoforte ci ha accompagnati insieme a Frick Anthony in questa puntata, dedicato a Loredana Bertè che con la sua schiettezza e la sua faccia tosta e la sua intelligenza rappresenta un po' tutte le donne che non vogliono salire su quel palcoscenico, è dedicato decisamente a Frick Anthony che grazie a lui, insomma, come già detto, abbiamo capito tanto della musica italiana e cambiato tanti punti di vista, quindi grazie Frick per le serate passate insieme, per le note cantate e suonate insieme e per tutto quello che ci hai lasciato, ci manchi tantissimo.